essenziale per avere di esenzione, perché alla fine degli anni 60 l'Europa continentale, quindi al di là di quello che è l'Inghilterra, l'America e il Francia, ma l'Europa continentale ha conosciuto queste due zone musicali che diceva fanculo qualsiasi tecnica, quello che mi interessa è l'anima di chi suona. Yes. Buoni per chi è già sveglio, per chi non vuole dormire, per chi non può cadere. Cerco in un canale che non lavoro più. E non l'ha contato da tutti. Il banco è entrato quanto di più, cioè è stato la base della propria volta negli ultimi anni 50. Voi cosa ne fate la banca? Il motivo essenziale per cui ci si esizione è perché alla fine degli anni 70 l'Europa non al di là di quello che è l'Inghilterra. Ascolta, c'è chi ti ha già sentito e ti vuol far tacere, e c'è chi resta indietro. Sento in testa paure che ormai non peso più. Sabia, per non pensare più.